siamo ancora in tempo, credi di non spensierata, sei contenta, vattene amore, che pace più non avrò, ne avrà. Perderemo il sonno, credi di no, i treni e qualche ombrello, pure il giornale, leggeremo male cara, vedrai, ci chiederemo come mai, il mondo sa tutto di noi, magari ti chiamerò, rotolino amoroso e tu tu ta ta ta, e il tuo nome sarà città di un gattino annaffiato che mi agolerà, il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità, sulla strada per me io col naso in su, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po', e poi ora non lo so. Vattene amore, io barbaro invasore, credi di no, sorridente truffatore, vattene un po', che pace più non avrò, ne avrai. Vattene o saranno guai, i piccoli incidenti cara vedrai, la stellare guerra che ne verrà, il nostro amore sarà lì, tremante e brillante così, ancora ti chiamerò, rotolino amoroso, tu tu ta ta ta, e il tuo nome sarà il freddo e l'oscurità, un gattone arruffato che mi graffierà, il tuo nome sarà già fresca per me, io col naso in su, la testa ci perderò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po', e poi ancora non lo so, ancora ti chiamerò, rotolino amoroso, tu tu ta ta ta, sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi agolerà, il tuo nome sarà un cartellone che fa della pubblicità, sulla strada per me io col naso in su, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po', amore. Di di di di di di di di.